ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ah, ma non puoi farci cedere, ah. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere, ah. Noi sappiamo. Si può cantare.